Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la giornata di borsa, vi dico già che oggi invece rispetto a ieri prevalgono i realizzi, meno 0,76% a Milano, come a Parigi e come a Francoforte, sono tutte allineate da questo punto di vista le principali borse europee. Londra fa eccezione, più 0,20%, euro quota 1,1380, quindi vicino a quota 1,14. I titoli, come già capite dall'indice, sono soprattutto quelli di maggiore capitalizzazione, quasi tutti negativi, eccezione fatta per Saipem, più 3,82%, Generali più 1,60%, Tenaris più 1,40%, Ferragamo più 1,1%, Hughes Net-a-Porter più 1,1%, Moncler più 0,60%, come CNH Industrial. Tra i titoli, chi perde parecchio, e diciamo questo calo va in qualche modo a innestarsi in un ragionamento sul titolo Unicredit. Avete letto forse oggi sui giornali, insomma, il mal di pancia di alcuni soci per come si sta gestendo in Unicredit il passaggio da Ghizzoni, che ha già annunciato che di fatto non è più l'amministratore delegato, aspetta il nuovo nome. E i tempi previsti a questo passaggio, la banca continua a essere sotto pressione perché dopo un recupero ieri parziale oggi perde di nuovo il 4,70% a 2,54 euro. Realizzi o vendite, a seconda di come la voglia vedere, dopo le ultime due giornate di netti rialzi anche per Banco Popolare, meno 3,85%, meno invece per Pop Milano. Ma soprattutto l'altro titolo che cala in questo momento è UbiBanca, meno 3,90%, la Pop Emilia Romagna meno 3%, Monte dei Paschi meno 2,70%, Pop Milano meno 2,15%, Intesa San Paolo meno 2%. Ci occuperemo di borse e anche di banche per un insieme di motivi, tra cui il fatto che oggi la Banca Centrale Europea ha dato il via al nuovo piano di acquisti di obbligazioni societarie. Per ora si starebbe concentrando sulle obbligazioni, sul segmento delle utilities, però oltre a gruppi energetici francese Engie e a Telefonica, la spagnola Telefonica, Telecom Italia, secondo indiscrezioni, queste sarebbero alcune delle obbligazioni comprate da Francoforte, vi sarebbe anche c'è anche la voce di acquisto di obbligazioni delle Generali. Oscilleranno secondo gli analisti gli acquisti fra i 3 e i 10 miliardi al mese. Ne parleremo più avanti, però faccio notare che su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Oggi la Banca Centrale Europea ha avviato l'acquisto di obbligazioni emesse da società private come previsto dal piano di ampliamento del quantitative easing. Non abbiamo ancora indicazioni ufficiali, ma sembra che nel primo giorno siano stati acquistate obbligazioni di alcune grosse società francesi e spagnole e anche della prima compagnia di assicurazione italiana, ovvero Generali. La BCE a questo punto ogni mese immetterà sul mercato circa 80 miliardi di euro utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato e prodotti affini e appunto ora anche per i corporate bond, ai quali secondo gli analisti saranno destinati tra i 5 e i 10 miliardi di euro al mese. Non tutti i bond societari possono essere acquistati dalla BCE, ma solo quelli che rispondono a requisiti di affidabilità e di solidità della società che li ha emessi. Sono comunque esclusi i bond delle banche. Qual è l'obiettivo l'obiettivo di questo piano e quali le conseguenze. Partiamo da qui: si stanno riducendo fortemente i rendimenti delle obbligazioni societarie, il tasso medio oggi risultava in calo dello 0,6%. Più in generale, questo è un modo per cercare di amplificare, di rafforzare gli effetti della politica monetaria espansiva della BCE, il cui scopo, ricordiamolo, è sia quello di contrastare il rischio deflazione, sia quello di garantire una maggior disponibilità di liquidità da far arrivare all'economia reale, per esempio attraverso i prestiti alle imprese e anche alle famiglie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E a proposito di, scusatemi, di obbligazioni, ma in questo caso titoli di Stato, il Bund ha toccato un nuovo minimo storico, ossia allo 0,033% dal precedente minimo dello 0,045%. E proprio lo fa nel giorno in cui parte l'acquisto di titoli societari da parte della BCE, chiaramente crea una concorrenza sul mercato e si abbassa il rendimento. E il differenziale tra il Bund a 10 anni, stiamo parlando, cioè, di chi presta i soldi alla Germania per 10 anni, accetta un rendimento lordo all'anno dello 0,033% lordo, e quindi non ti copre. È vero che siamo in deflazione, ma insomma immagino che non riesca neanche a coprire la deflazione, a meno che uno non debba immaginare che nei prossimi 9 anni avremo una deflazione costante. Lo spread, dicevo, tra Italia e Germania attualmente viaggia sui 137 punti. La Cina, restiamo sull'economia internazionale. La Cina, purtroppo dalla Cina non stanno arrivando buone notizie nemmeno questo mese. Sono infatti scivolati ancora sia l'export che l'import cinesi. Questo chiaramente risente della debolezza della domanda globale, ma allo stesso tempo la Cina è uno degli elementi della debolezza di questa domanda globale. E c'è anche una domanda domestica in calo, per quello che riguarda i consumi cinesi. Praticamente ha fatto meno 4,1% l'export, meno 0,4% l'import. Il surplus che resta, quindi la differenza tra quanto la Cina esporta rispetto a quanto importa, si attesta a 50 miliardi di dollari. Per quello che riguarda le macro aree, c'è un saldo positivo della Cina verso l'Unione Europea di 10 miliardi, mentre è di 21 miliardi il saldo positivo nel commercio con gli Stati Uniti. Ora, è probabilmente una non notizia, perché lo ripetiamo da anni, e con l'atteggiamento che ha avuto l'Unione Europea in questi anni, sia sul fronte delle politiche economiche che anche sulla gestione dei migranti, non ci si poteva attendere un dato diverso. Però lo studio pubblicato dal Pew Research Center, che si intitola in maniera abbastanza emblematica Euroscetticismo oltre la Brexit, denuncia un crollo vero e proprio dell'atteggiamento europeista nei vari paesi, non solo in Gran Bretagna, ma meno 17 punti in Francia, meno 8% in Germania, meno 6% in Italia. Pensate che in Francia il sostegno all'Europa è al 38%, in Germania al 50%, in Spagna al 47%, in Grecia al 27%. La Spagna ha 16 punti in meno di consenso verso l'Unione Europea nell'arco di un anno, per cui il tema riguarda non solo la Gran Bretagna, e ripeto, non c'era da attendersi con un'Europa così rigida sull'austerità in questi anni e così poco Europa, poco solidale sul fronte migranti, non c'era da attendersi un grande entusiasmo, per essere buoni, nei confronti di questa Europa. Allora, veniamo all'Italia. Il ministro dell'economia Padoan anche oggi è intervenuto, e stiamo uscendo da una trappola infernale che ha congelato la crescita dell'economia italiana per 20 anni. Liberiamoci dagli impedimenti strutturali che durano appunto da 2 decenni. Questo a margine del convegno Italy's Back, organizzato dall'American Chamber of Commerce. L'orizzonte del governo è di medio periodo, per quello che riguarda l'orizzonte temporale di politica economica del governo non può che essere di medio periodo, ha continuato Padoan. Il sentiero è stretto per quello che riguarda la politica economica. perché da un lato abbiamo la politica di bilancio orientata alla crescita, dall'altro dobbiamo rispettare in maniera rigorosa le regole europee, ma noi siamo disciplinati. Il programma del taglio delle tasse continua e per quanto riguarda la proposta del 5 Stelle, uno dei cardini della proposta economica del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, Padoan ha detto: se generalizzato il reddito di cittadinanza pone un problema di sostenibilità di finanza pubblica estremamente serio. Comunque adesso, superata anche la tornata delle amministrative, parleremo anche noi con calma, in maniera, poi d'estate, se non capitano altri casi Grecia e quant'altro, si riesce anche a ragionare non di strettissima attualità invitando persone a favore o contrarie al reddito di cittadinanza. Sappiamo i fautori che cosa sostengono, così come chi ne è contrario dice che sostanzialmente, al di là della sostenibilità dei conti pubblici creerebbe una distorsione sul mercato, perché stimolerebbe meno l'ingresso nel mercato del lavoro. Comunque, sullo stato di paese di salute del nostro paese, ascoltiamo anche al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos, l'ex presidente Confindustria e che attualmente è presidente del Sole 24 Ore della MAPEI, Giorgio Squinzi proprio su come sta andando la nostra economia. L'Italia è un grande paese industriale, non per niente, nonostante la crisi che stiamo attraversando, da cui non siamo purtroppo ancora completamente fuori. Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, siamo il quinto o sesto paese manifatturiero al mondo, quindi questo parla da solo. Gli Stati Uniti sono il partner naturale per noi, e abbiamo tantissimi punti in contatto e tante possibilità di lavorare assieme. Qual è la sua personale ricetta per sfruttarli ancora meglio, visto che quello che ci riconoscono è l'eccellenza? Noi dobbiamo semplificare il nostro paese, renderlo un paese normale, come dico sempre io, è un paese dove ci si possa muovere come si muovono gli altri paesi, grandi paesi manifatturieri al mondo. Padoan l'ha convinta, ha apprezzato le sue parole? Troppo ottimismo, troppa cautela? Il ministro Padoan sicuramente vede un trend in maniera abbastanza corretta, purtroppo non possiamo dire di essere fuori, questo è il problema. Allora, sentiamo anche l'amministratore delegato di Ennis Young, Donato Iacovone, sempre al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Sì, ha ragione un ascoltatore che mi dice: oddio, se lei spera di avere un'estate tranquilla, non sta calcolando l'ipotesi Brexit. Vabbè, questo è sicuro, diciamo che immaginavo che nel caso di una vittoria, che mi auguro, dei no all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, l'estate possa essere più tranquilla. Sicuramente sembra essere dal punto di vista della situazione greca, visto che adesso abbiamo avuto notizia sempre oggi che tra l'altro anche le obbligazioni greche saranno ammesse a settembre al piano di quantitative easing della Banca Centrale Europea. Comunque, andamento dell'economia italiana e in particolar modo dell'export verso gli Stati Uniti, visto che di questo si parlava oggi nel convegno Italy's Back della Camera di Commercio Americana in Italia. Al microfono di Stamatopoulos, appunto, l'amministratore delegato di Ernst & Young, Donato Iacovone. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate e aumentano di anno in anno, non raggiungono i volumi a cui noi possiamo ambire, come la Francia o la Germania hanno oggi con gli Stati Uniti, ma comunque crescono e comunque valgono 44 miliardi, che è circa il 10% del totale dell'esportazione del paese Italia. Questa è la buona notizia. Quello su cui noi dobbiamo crescere è su aumentare questi investimenti, puntando su una migliore comunicazione, un miglior marketing, un programma che quindi meglio il Made in Italy, cosa che non sappiamo fare. Perfino molti dei vini che si vendono, che sembrano italiani o passano sotto la bandiera italiana, in realtà non sono italiani. Ecco, gli italiani sono quelli che sono meno bravi negli Stati Uniti a vendere il Made in Italy. Allora, questo secondo me è uno spazio che noi dobbiamo recuperare, e secondo me, secondo tanti operatori, e qui ci va un piano, e ci va molta disciplina, molta focalizzazione, un piano molto preciso e un sistema a cui attorno si devono muovere tutti gli istituti e le organizzazioni che sono pagate per far questo, dall'ICE a tutte le altre strutture, le ambasciate perfino, perché no? Allora, vedo molti messaggi sul reddito di cittadinanza, non riesco a parlarne oggi, ho solo fatto notare che da un lato i benefici sono abbastanza intuitivi e intuibili. Dare un reddito di cittadinanza a chi non arriva a un solido reddito minimo. Adesso parleremo del rapporto Censis sulla sanità in Italia, dove sono saliti di 2 milioni in 4 anni gli italiani che hanno dovuto rinunciare o rinviare prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, da 9 milioni nel 2012 a 11 milioni nel 2016, e nel 2012 già c'erano stati 3 anni di crisi. Però ho solo detto che se sono chiari i benefici di un eventuale reddito di cittadinanza, dall'altro punto di vista molti fanno osservare che laddove si è applicato un meccanismo simile, per esempio forti sussidi a chi non aveva un lavoro, questo ha creato nel medio termine una distorsione del mercato del lavoro stesso, perché avevi più persone che rinunciavano sostanzialmente a cercare un lavoro e cercavano di starci dentro con il sussidio. Quindi c'è un elemento anche distorsivo, al di là del fatto che si possa o no fare sui conti pubblici. Molti mi scrivono: se eliminassimo gli sprechi, riducessimo la spesa pubblica, che non è così alta rispetto ad altri paesi nei confronti del PIL, è che è spesa male, a quel punto potremmo avere i margini per il reddito di cittadinanza. Comunque, andiamo avanti con ancora due notizie in breve, poi passo appunto al rapporto sulla salute. L'agenzia di rating Fitch dice oggi che è presto per dire se le riforme approvate dal governo, dal lavoro a quella del sistema elettorale, ai fallimenti aziendali, all'istruzione, rilanceranno il PIL italiano. È possibile che in Italia vengano chiesti nuovi aumenti di capitali alle banche. A proposito di banche, oggi si è saputo che da metà aprile che è in corso un'ispezione della Banca d'Italia in materia di riciclaggio in Veneto Banca. Oggi si scopre infatti che in data 14 aprile 2016 la Banca d'Italia ha avviato una visita ispettiva su Veneto Banca avente ad oggetto la verifica del rispetto della normativa in materia di contrasto del riciclaggio, con particolare riferimento alle componenti bancarie italiane del gruppo. L'ispezione, precisa la Banca d'Italia, è ancora in corso. Per quello che riguarda l'aumento di capitale di Veneto Banca, oggi si è scoperto che tra l'altro costa al gruppo più di 60 milioni di euro, ma che è un'operazione a rischio massimo, lo ha riconosciuto anche il direttore generale Cristiano Carrus, presentando l'operazione che prevede 1 miliardo di aumento di capitale. I 60 milioni è il costo delle commissioni previste da chi coordina l'offerta, che è coordinata da Banca IMI, affiancata da Citibank, Credit Suisse, Società Generale, UBS. Poi nella parte ci sono anche Barclays, Commerzbank, Natixis e Unicredit. (334) 239 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E allora parliamo di questa presentazione di oggi, nel sesto Welfare Day, la ricerca di Censis, RBM, Assicurazione Salute sulla sanità integrativa. Ma all'interno di questa ricerca il dato che ha fatto più notizia è quanto tenda a dilatarsi l'universo della cosiddetta sanità negata. Ripeto, 9 milioni nel 2012, quando eravamo già al terzo anno di crisi, diventati 11 milioni nel 2016. Questi gli italiani che hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche. Sempre più persone non riescono a finanziare prestazioni di cui avrebbero bisogno, in particolare le fasce più deboli, che sono i due estremi sostanzialmente: gli anziani, 2 milioni e 400 mila anziani, e dalla parte opposta i millennials, quelli nati dal 2000 in poi, 2 milioni e due, dagli anni 80 al 2000 per essere precisi, 2 milioni e 200 mila millennials cosiddetti, che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie. Allora ne parliamo da un lato con la responsabile area welfare e salute del Censis, che ha redatto la ricerca, Katie Vaccaro. Buonasera. Buonasera a voi. E dall'altro con l'esperto e la firma del Sole 24 Ore quando si parla, anche quando si parla di sanità, Roberto Turno, buonasera. Buonasera a te Sebastiano e ai tuoi ascoltatori, grazie. Allora, se ho ben capito, dottoressa Vaccaro, voi avete anche stimato che in 2 anni è aumentata di 80 euro a persona la spesa privata, diciamo quella che pago di tasca mia, out of the pocket, dicono gli inglesi, e non rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, da 485 a 570 euro pro capite, ed è salita a quota 35 miliardi la spesa sanitaria privata. Mi scusi, ma se io sommo il numero di italiani che non riesce, che rinvia o rinuncia alla prestazione sanitaria, arrivati a 11 milioni, e l'aumento della quota parte mia di spesa privata, questo vuol dire che ci sono due possibilità: o c'è stato un peggioramento della salute e delle condizioni fisiche, o il combinato disposto delle due cose ci dice che c'è stato un grossissimo taglio in quelli che sono i servizi essenziali della sanità. Beh, diciamo che il taglio è un taglio occulto, cioè una forma di razionamento occulto legato sostanzialmente alle lunghissime liste d'attesa del pubblico e al fatto che il ticket diventa sempre più consistente. Quindi l'incremento della spesa privata deriva dal fatto che per accedere a una prestazione ho bisogno di mettere mano al portafoglio sostanzialmente, tant'è vero che relativamente in pochi anni è aumentata la quota di chi ci ha detto che invece ha rinunciato soprattutto a prestazioni specialistiche, ha rinunciato alla diagnostica, l'ha rinviata a momenti migliori, perché di fatto quello che succede è che io, per avere la prestazione in tempi compatibili con il mio bisogno sanitario, o vado al privato oppure devo talvolta pagare un ticket che non è più competitivo, perché le tariffe private si avvicinano sempre di più al costo del pagamento, della compartecipazione. Questo è quello che sostanzialmente è avvenuto. Di fatto, se noi guardiamo i numeri macro, che sono i numeri ufficiali della spesa sanitaria, siamo arrivati a quasi il 24% di spesa sanitaria privata sul totale della spesa sanitaria italiana. Quindi, come dire, sono numeri assolutamente consistenti. No, ma vorrei fermarmi su quanto lei diceva all'inizio, cioè questo è stato uno spostamento occulto, nel senso che è vero che oggi il ministro Lorenzin, dopo la presentazione dei vostri dati, ha detto, insomma, è chiaro che il sistema sanitario deve fare i conti con la grave crisi economica, però attenzione che non si possono fare le nozze con i fichi secchi, per cui c'è necessità di difendere l'aumento del fondo sanitario previsto per il 2017-2018. Faccio notare che in finanziaria, lì poi il governo gioca con le parole, rispetto all'aumento previsto sono stati levati 2 miliardi proprio al fondo sanitario. Non hanno levato 2 miliardi al fondo, hanno levato 2 miliardi a quelli previsti. E poi la Lorenzina ha detto: ho intenzione di proporre l'inserimento nel mio decreto legislativo sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie di una norma che imponga di valutare i manager anche in relazione agli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa. Perché quello che lei ci sta dicendo, dottoressa, è che lo spostamento occulto verso il privato avviene perché ho delle liste lunghissime d'attesa, per cui 7 milioni di italiani hanno fatto ricorso all'intramoenia, il 66% dei quali proprio per evitare le lunghe liste d'attesa. Esatto. E il 30% si è rivolto alla sanità a pagamento anche perché i laboratori, gli ambulatori, gli studi medici sono aperti nel pomeriggio, la sera e nei weekend. Poi c'è chi denota anche lo scadimento della qualità del servizio sanitario pubblico: per il 45% di italiani nella propria regione è peggiorato. Lo pensa il 39% nel nord-ovest, il 35% nel nord-est, il 50% nel centro del paese, il 53% al sud. Roberto Turno, un primo dato, poi vi faccio altre domande dopo il meteo. Questo è un fenomeno, dico, quasi carsico, cioè sotterraneo, ma tu unisci liste di attesa, scarsa efficienza che non viene misurata e sanzionata, mi riferisco ai dirigenti anche delle ASL, sulla possibilità di accedere agli ambulatori, gli studi e i laboratori, e quindi di fatto mi porti verso il privato. Sì, anzitutto fammi salutare Ketty Vaccaro, che conosco da tanti anni e che ti apprezzo per la serietà dei lavori che fa col Censis. Hai detto bene, c'è da dire che si può leggere questo rapporto, non so se Vaccaro è d'accordo, come la cronaca di una disfatta annunciata. Cioè, quando il servizio pubblico non mette in moto con quelle leve, con quelle possibilità, con quelle carte che ha in mano per essere se stesso, per essere quello che deve essere, per essere quello per cui gli italiani pagano e che si aspettano, allora non c'è niente da fare, anche se poi, come ha detto la Lorenzin, è anche giusto ricordare che non tutto il paese è così, anzi, fortunatamente, tu hai ricordato giustamente che quei casi, quelle regioni, poche per la verità, dove per eliminare questa vergogna delle liste d'attesa, questa indecenza dell'intramenia fatta d'arte, si lavora di notte, si fanno camminare. Sì, ecco, chiariamo anche il concetto dell'intramenia fatta d'arte. Cosa vuol dire? Vuol dire che il medico può spingere, mettiamo così, vista la lunghezza delle liste d'attesa, cioè, guardi, se viene invece in intramenia, cioè privatamente, non deve aspettare sei mesi, ma banalmente una settimana. Il sospetto è che delle volte, o meglio, più che un sospetto, in alcuni casi a mio avviso è una certezza, questo venga, Roberto, fatto artatamente, cioè insomma si dica, siccome ci guadagna di più, ovviamente, sull'intramenia, dica vabbè, guardi, non rendiamo troppo efficienti la lista sul pubblico, andiamo invece in quella del privato. Però lì l'unica deterrente sono le sanzioni, a partire dai dirigenti delle ASD e giù a cadere, no? Si possono fare, certo, senza che cadere negli errori fatti col decreto appropriatezza, che ormai è, dico una cosa, perché non esiste, no? Quello delle sanzioni ai medici che prescrivono male, per cui. Però c'è da dire una cosa, che da Lorenzin nel dire non si fanno le nozze con i fichi secchi, batte cassa, dice al governo voglio 2 miliardi in più, quello che ripete da tempo. Questi 2 miliardi in più, sia chiaro, sono legati all'andamento del PIL, cioè se il PIL non cresce in un certo modo, questi 2 miliardi in più non arriveranno, sempre che poi l'economia, quando si arriverà al Red Ration dei primi di ottobre, di metà ottobre, voglia dare questi 2 miliardi in più. Io temo che si arriverà a, non è vero che ne ho dato 2 in meno, ne ho dato 1 in più, come è accaduto l'anno scorso. Sì, cioè, è già così. Però io vorrei chiedere una scelta poi politica. Questo, ecco, vorrei chiedere poi dopo il metro, poi ci sta a Katie Vaccaro, la responsabilità però anche delle regioni, perché giustamente la sanità è su base regionale, i soldi, gli stanzi del governo su base nazionale, però noi adesso ci stiamo concentrando sui 2 miliardi in meno rispetto ai 3 miliardi previsti, il governo dice no, è 1 miliardo in più rispetto all'anno scorso. Vabbè, è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, però molti ascoltatori mi fanno notare al 349-238-6666 che ci sono regioni in cui non hanno tutte queste esperienze negative di lista d'attesa e quindi attenzione a fare di tutto un erba un fascio. Vorrei capire anche le responsabilità regionali dopo il meteo. Focus Economia. Allora, dottoressa Katie Vaccaro, in quanto responsabile dell'area welfare e salute del Censis, andando sulle responsabilità, abbiamo visto quelle dei mancati finanziamenti di una sanità dove abbiamo coinvolto anche i medici e comunque i direttori delle ASL, perché nella gestione delle liste d'attesa non si può fare tutto in un fascio e ci può essere un conflitto di interessi forte tra il medico che spinge il paziente per andare privatamente in intramoegna rispetto a fare la lista normale nel pubblico. Le regioni? Io direi che la situazione che abbiamo descritto è una situazione per definizione complessa, perché i fattori che influenzano questa diciamo chiamata in causa sempre di più delle risorse private sono diversi. Prima di tutto la crisi economica complessiva e va bene. Poi la stessa Corte dei Conti ha affermato nettamente che la sanità ha dato un contributo importante al risanamento finanziario del paese. Cioè, abbiamo richiesto sacrifici importanti, riduzione dei finanziamenti, blocco del turnover e quant'altro. Pensiamo alla questione del finanziamento dei nuovi farmaci, per esempio. Quindi c'è stata una concentrazione di manovre e attualizzazione economica sulla sanità. E poi c'è la questione e della capacità gestionale delle regioni di queste risorse, che è una questione annosa che poi ben rispecchiata secondo me dai dati che lei ha citato sui livelli di soddisfazione percepiti dagli italiani. Di fatto c'è una cesura tra regioni del nord e regioni del sud. La sensazione che gli italiani hanno è quello di dover pagare di più per avere di meno, sostanzialmente. Beh, abbiamo fatto anche intere puntate sul turismo sanitario, che costa una barcata di soldi alle regioni del sud per l'incapacità o la non volontà in alcuni casi di gestire. Io su questo vorrei essere chiara, c'è anche un problema di responsabilità gestionale specifica all'interno delle regioni, cioè questo non gli assessori non è, e i direttori delle ASL, non è che possiamo sempre dare la colpa alla politica di Roma, Esatto, non è c'è anche una capacità gestionale specifica sia di livello regionale che di livello locale, perché poi le profonde differenziazioni che ci sono nella capacità di risposta a livello territoriale, che vanno al di là delle regioni, molto spesso diciamo sono differenziazioni anche interne al tessuto regionale, dimostrano che ci sono best practice e no practice, direi, molto articolate sul territorio. Quindi questo è un punto su cui vale la pena di riflettere un attimo. Il problema non sono solo le liste d'attesa, però questo va detto. Però un diciamo utilizzo non sprechi, un utilizzo non razionale delle risorse che è vogliamo parlare della sanità calabrese, dico. Ma allora che pagano gli italiani, però è questo il punto. No, pagano tutti, lo paghiamo tutti noi, certo, i calabresi e anche gli italiani non calabresi. Allora, mi scrive un ascoltatore, cito un caso: lista per attesa mammografia alla ASL 12 in Umbria, 14 mesi, a pagamento in ospedale il giorno dopo, costo 205 euro. Questo è avvenuto a mia moglie, oggi ha fatto la mammografia pomeriggio alle 14, quindi tengono libero il macchinario solo per coloro che pagano. Cioè, questo è il problema, però, Roberto Turno, cioè niente in contrario con l'intramoenia, però non può diventare prioritario il pagamento al privato e quindi la stessa macchina della mammografia se sei pubblico aspetti 14 mesi perché nel frattempo devi scaricare tutto il privato. Faccio ancora due esempi, poi sto zitto. Un pediatra ospedaliero mi dice: stiamo facendo i salti mortali per rispettare i tempi, ma siamo senza personale e quindi si allungano le liste d'attesa. E poi un ascoltatore che mi scrive che ha prenotato una visita per suo figlio a Padova nell'aprile del 2015, gli hanno dato l'appuntamento per marzo 2018. Allora, andiamo un po' sulle responsabilità per non stare solo mancano i soldi. Qui c'è dei dirigenti che dovrebbero dirigere e vigilare, e andrebbero rimossi se non lo fanno, dei medici che andrebbero probabilmente sanzionati e degli assessori che dovrebbero rispondere di come funziona la loro sanità, o no? Il punto è che qui parliamo di regole che già esistono, non è che non esistono, perché chi è corrotto può essere condannato, chi lavora poco può, chi lavora male c'ha le responsabilità. Queste regole esistono, vanno applicate. Quindi se le cose non si fanno, il punto è che questa torta è troppo prelibata. Cioè, qui parliamo di un affare da 150 miliardi l'anno, d'accordo? Senti, la soluzione di rivedere l'intramenia? L'intramenia va evitata il più possibile. Poi se uno per scelta personale, però scelta personale che non dipenda dal fatto che attendo, che non attendo, preferisce, voglio quel medico lì, ma magari se c'è il fondo integrativo se lo può permettere, oppure qualcosa sarebbe. Insomma, ma scelta personale, quando diventa sistema o quasi siamo. Sì, ma come fai a fare una scelta personale se scrive un ascoltatore che per operazione di cataratta a Bergamo, cito volutamente il nord, perché con il sistema sanitario nazionale un anno di attesa a pagamento con 1500 euro tutto in un mese, come fai a dire che è una scelta personale? Se hai liste d'attesa che non sono quelle attuali, che sono corte, speriamo, c'è la scelta personale del medico piuttosto che del posto letto, che tutto quanto. Però guarda, quando si parla di sanità si cade troppo facilmente, lo faccio anch'io, un po' nel qualunquistico. Sono d'accordo, perché il tema è immenso. Badiamo che gli ospedali sono una polveriera, che lavorare in un ospedale per un medico, per un infermiere, è spesso un inferno. Questo lo è. Cioè, non è che poi dice il medico che non lavora, cioè è no, un no, sistema questo... in sé che non va. Quindi io mi tiro fuori dall'attacco al medico, al primario, al che. Cioè, oddio, cioè, non è che siano tutti santi nemmeno lì, eh? Assolutamente no. Però magari... poi si rischia di fare tutti colpevoli. Quindi no, tutti no, liberi. No, ho solo detto questo che. Non può essere. Eh? Allora, dopo il traffico, però avete un minuto a testa, mi dite qual è. Non dico la soluzione perché sareste dei premi Nobel, ma. Dov'è che uno deve intervenire? Perché sennò parliamo sempre della spesa sanitaria nazionale e sappiamo che dentro ci sono maree di sprechi, soprattutto in certe regioni del sud. Allora poi parliamo dei medici, tu mi dici guarda che però chi lavora nella struttura pubblica lavora in un Vietnam, ed è vero, infermieri e medici. E allora cioè, ditemi però se voi foste al governo domani o se foste la Lorenzini su che cosa interverreste in maniera prioritaria per fare in modo che la scelta del privato sia una scelta vera e non un obbligo, vista la situazione delle liste d'attesa nel pubblico. 349-238-6666 per gli sms dopo il traffico. Focus Economia. Allora, dottoressa Chetti Vaccaro, la prima, non l'unica, lo dico a chi scrive, la prima necessità di intervento. Io direi, prima di tutto, un'operazione verità. Smettiamo di fare finta che il sistema sia ancora un sistema realmente universalistico, perché di fatto non lo è più, perché le manovre e tutto quello che abbiamo descritto ora, inefficienze, crisi e quant'altro, hanno di fatto non sono state socialmente neutrali, hanno creato una penalizzazione proprio delle persone che hanno maggiori bisogno di risposte del Servizio Sanitario Nazionale. Lei citava i più anziani, ma io direi anche le persone meno abbienti, i cronici. Certo. Di fatto queste sono le persone che oggi hanno maggiori difficoltà ad accedere al servizio. Quindi prima di tutto un'operazione verità, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, altrimenti non riusciamo a salvare quella parte di sistema che invece va salvato, secondo me, perché non possiamo rinunciare all'approccio universalistico. C'è la questione che dicevo poi, diciamo, pratica, che è una analisi di dettaglio del modo in cui vengono impiegate le risorse e un controllo sui decisori di spesa. Questo mi sembra un altro aspetto importante, a partire però dalle amministrazioni locali. Cioè la sanità oggi la gestiscono le regioni e di seguito le ASL. Cerchiamo di capire lì dove sono i problemi e come possiamo affrontarli nel quotidiano, però uscendo dall'ambiguità, perché questo è un punto al quale tengo, uscendo dall'ambiguità. Adesso noi riusciamo a mantenere il sistema solo perché ci sono 34 miliardi di spesa privata dei cittadini, altrimenti non sarebbe più sistema sanitario. Roberto Turno? Se mi chiedi una ricetta, ce l'avessi, sarebbe facile. No, ma la prima necessità di intervento. Ma guarda, rispetto ai singoli problemi, poi questo, poi tenendo presente che ogni regione fa soli a sé. Per quanto riguarda il discorso, per esempio, degli ospedali, delle liste d'attesa, io andrei a colpi di assunzioni e degli orari lunghi. E poi tanti controlli. Sì, perché controlli. Molti medici ci fanno notare che c'è un problema proprio di orario, nel senso che non vi sarebbe... Certo. E molti potenziali pazienti ci scrivono, sto guardando sia su WhatsApp che su SMS, che loro non avrebbero nessun problema andare a fare la visita e l'esame anche in orari, certo, diciamo, disagevoli, di notte, alle 11 di sera, alle 2 di notte, purché il macchinario fosse aperto. Qui c'è anche il problema del personale e dell'efficienza. Sì. Torniamo al solito problema degli stand, dei dirigenti. Io penso, lo dico nella mia personalissima opinione, che poi si vada a controllare quello che fanno i medici nei reparti, come i primari organizzano i loro reparti, ci sono responsabilità anche lì, e non si tagli sempre la spesa sanitaria, si faccia l'operazione di pulizia, di trasparenza che diceva la Vaccaro, cioè riconosciamo che di questo passo abbiamo creato, non riusciamo più a mantenere un servizio universale di spesa sanitaria, però poi si vada anche a sanzionare i dirigenti, perché molti degli sprechi, delle inefficienze che abbiamo sono passate per il giro d'affari, voglio essere buono, anche delle nostre ASL, di chi aveva i centri di costo per approvvigionarsi. E con quei soldi magari assumevi qualche persona in più e riuscivi a organizzare meglio anche il tuo reparto o l'ospedale di cui sei dirigente. Grazie intanto sia chiaramente a Roberto Turno che alla responsabile welfare e salute del Censis, Chetti Vaccaro. Poi dopo il GR24 andremo sulla borsa, che ha chiuso in calo dello 0,37%, Milano così, Parigi meno 0,60, Francoforte meno 0,70, il peggior titolo resta Unicredit, meno 4,60%, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ci sentiamo dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa. Non posso rispondere alle decine di sms e whatsapp che stanno arrivando sulla sanità, intanto perché abbiamo dedicato, diciamo, buona parte della prima ora al rapporto del Censis, in secondo luogo perché, come emergeva anche dagli interventi degli ospiti, purtroppo parlare di sanità vuol dire parlare di un universo così variegato, per cui mi stanno arrivando messaggi e testimonianze di chi invece in intramenia, ma non solo in intramenia, a livello di servizio sanitario pubblico ha avuto ottime esperienze, liste d'attesa quasi inesistenti, esami fatti anche in tarda sera, e chi invece narra percorsi, per non dire calvari, completamente diversi. Lo sappiamo, però il punto era capire dove andare a incidere, se possiamo usare questo termine, più che dire semplicemente la sanità non funziona oppure no, funziona a seconda delle regioni in cui uno abiti. La borsa, meno 0,40%, in realtà la borsa oggi si chiama anche Banca Centrale Europea, che ha iniziato l'acquisto di obbligazioni corporate, obbligazioni societarie. Ma andiamo su alcuni temi specifici. L'indice in realtà è assolutamente in linea con il resto d'Europa, meno 0,60 sia Parigi che Francoforte, più 0,30 Londra e più 0,30 in questo momento il Dow Jones. Però di nuovo fa notizia Unicredit, meno 4,60% oggi a 2,55 €. Ceo Condi, la Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Beh, sicuramente Unicredit paga l'attesa per il consiglio di amministrazione di domani, che dovrebbe fare il punto sulla sostituzione di Federico Ghizzoni, l'ormai ex amministratore delegato. Non sembra che la procedura sarà celere, anzi, anche se ci sono alcuni soci che premono affinché Unicredit scelga a breve termine il proprio capo azienda, di sicuro comunque la mancanza di certezze sulla figura apicale viene pagata dal titolo in borsa. Oggi Unicredit è sui minimi e cede, come dicevi tu, il 4,5%. Sì, e si fa, non dico complicata, però insomma questo è il segnale di quanto secondo alcuni male sia stata e sia gestita questa operazione di passaggio. Ma al di là del commento caustico da Trento di Penati, il numero uno del Fondo Atlante, che ha detto: ma come si fa a cacciare un amministratore delegato senza avere un nome pronto? Andrebbero cacciati gli azionisti, se non ricordo mai la dichiarazione di Penati da Trento. Qui c'è un problema proprio di quella che si chiama governance, cioè Ghizzoni non è pro tempore, nel senso che ha detto che terrà l'interim finché non arriva il nome nuovo, ma i tempi sul nome nuovo sono troppo lunghi evidentemente per il mercato. UbiBanca meno 3,5%, Pop Emilia Romagna meno 3,20, Banco Popolare meno 3 e Pop Milano meno 2%, come il Monte dei Paschi. Pesa anche Veneto Banca? Assolutamente, pesano le fortissime incertezze sull'aumento di Veneto Banca, pesa comunque anche l'aumento di capitale del Banco Popolare, sono tutti e due aumenti in corso, il Banco Popolare cede il 3%, sicuramente al mercato viene chiesta tanta liquidità per sottoscrivere questi aumenti e comunque c'è grossa tensione proprio sui bancari, arriva a ondate questa tensione, arrivavamo da qualche seduta positiva, oggi sono tornate le preoccupazioni e i primi a pagare sono proprio questi titoli. Ancora, poi parleremo di auto perché ci collegheremo col Salone dell'Auto di Torino. Segnalo che oggi Fiat ha chiuso sostanzialmente quasi, no, non in parità, meno 0,60%, varie notizie di stampa individuano Fiat come uno dei soggetti che avrebbe avviato un accordo con Google e anche con Uber, però no comment dai portavoce della Fiat. Bene lusso, benino, Ferragamo più 1,5, Yux più 1,40, Moncler più 0,40%, Saipem più 4,90%. Qui ancora la commessa in Arabia Saudita? La commessa e anche la scommessa del mercato sul fatto che la società possa ottenere ulteriori commesse sempre in Arabia Saudita. Comunque il titolo è sempre inchiodato lì sotto 0,4 euro, perché magari in sedute precedenti ha anche perso, quindi diciamo che il bilancio da quando sono entrati in cassa oltre 3 miliardi non è certamente positivo. Ricordiamo che c'è stato un aumento di capitale lo scorso febbraio. Allora, Generali più 1,90, Tenaris più 1,70 e del resto abbiamo detto. Andiamo anche sui migliori e peggiori oggi in assoluto, dopo aver citato però tra chi perde ST Microelectronics il 2,70% e poi Luxottica, a proposito del lusso, meno 1,20%, Intesa meno 1, Exor meno 1,1, Ferrari meno 1%. Migliori e peggiori, dicevamo, Safebag più 34, Industria e Innovazione più 7%, Saipem più 4,80, fronte opposto Unicredit meno 4,5, appunto, EMS meno 7,40%. Grazie a Ceo Condina, a Radio Cori, sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di mercato, in questo caso obbligazionario, ma non solo, perché oggi è scattata un'altra fase, diciamo, degli aiuti che la Banca Centrale Europea sta dando, in questo caso con l'acquisto di obbligazioni societarie. Allora, parte con acquistando obbligazioni emesse soprattutto dalle utilities. E quindi chi fornisce servizi, ci sarebbero tra le prime obbligazioni comprate quelle di Telecom Italia, di Telefonica spagnola, del gruppo energetico francese Engie e anche forse di Generali. Da quello che ho capito dovrebbe, visto che come peso le obbligazioni societarie più diffuse sono quelle delle utilities 23%, poi il largo consumo 19%, telecomunicazioni 11%, industriali 9%. Ci sarebbe anche una divisione interessante per paesi di emissione, perché non tutti i paesi hanno società che emettono in egual proporzione obbligazioni, quindi prestiti sul mercato privato, chiedono prestiti sul mercato privato. La Francia è al 31% del totale, l'Olanda al 26%, Germania e Italia hanno circa il 10%. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Qual è l'obiettivo di questo piano e gli effetti che avrà? Allora, l'obiettivo della BCE è di aumentare la portata di quello che si chiama quantitative easing. Come sapete, la BCE da ormai da molto tempo sta stampando denaro, comprando titoli. Fino ad ora ha comprato solo, o non solo, comunque principalmente titoli di Stato. Adesso inizia a comprare anche obbligazioni aziendali. Quindi, diciamo, allarga il bacino dei titoli acquistabili per poter stampare più moneta. Quindi il primo motivo per cui lo fa è aumentare proprio la quantità di moneta, tant'è vero che d'ora in poi stamperà 80 miliardi di euro al mese e quindi aumenta la portata di questa manovra. In secondo luogo, comprando obbligazioni emesse da aziende, non più solo titoli di Stato, va ad aiutare anche le aziende, che possono ovviamente abbassare il costo del finanziamento quando emettono obbligazioni e quindi dà una mano in un certo senso all'economia reale. Questa manovra cerca di andare un po' più sull'economia reale e un po' meno sulla finanza, come fatto fino ad oggi. Il punto è che ad emettere obbligazioni, come è noto, sono solo le grandi aziende. In Italia si calcola più o meno che soltanto 26 grandi gruppi abbiano obbligazioni acquistabili dalla BCE. Considerate che in Italia ci sono moltissime piccole e medie imprese, quindi il problema è se il beneficio, oltre alle grandi aziende, andrà anche alle piccole imprese. La speranza è che questo accada, perché se le grandi aziende si finanzieranno più sul mercato obbligazionario, le banche forse avranno un po' più soldi per le piccole e medie imprese. In realtà non è affatto logica. Questa è la speranza, non è per niente automatico, condivido. E quindi il vero dubbio, il vero problema è: questa manovra aiuterà veramente l'economia reale o soltanto un piccolo gruppo di grandi imprese che, per amor di Dio, vanno aiutate, lasciando indietro tutte le altre? E poi, visto che noi, per colpa nostra, non è che sia colpa di qualcun altro, ma abbiamo un tessuto ancora troppo fatto di piccole e medie, che da noi in altri paesi sarebbero piccole anche le nostre medie, mettiamola così, imprese, abbiamo pochi grandi gruppi, il rischio indiretto è che si avvantaggino i francesi, gli olandesi, cioè chi ha tante obbligazioni societarie perché ha tanti grandi gruppi sul mercato, e quindi vedono, perché il vantaggio qual è? Che si riduce l'interesse che devi offrire per trovare un compratore. Se una parte di questo acquisto li fa la BCE, tu riesci a reperire liquidità sul mercato, prestiti a un tasso più basso di quello che non avresti ottenuto senza l'ingresso della Banca Centrale Europea. Dicevo, restano a bocca asciutta le nostre piccole e medie imprese, perché io, prima di credere all'automatismo per cui la banca che non presta più a Telecom, poniamo a Eni o a Generali, e quei soldi li usa per darli a Rossi, a Bianchi e a Verdi, la voglio vedere sta anche cosa. Perché la stessa BCE, con l'altra sua anima, impone alle banche dei criteri talmente stringenti nell'erogazione di credito, soprattutto sì, alle piccole imprese, che per le banche diventa oneroso, costoso, addirittura antieconomico erogare credito alle piccole e medie imprese. Quindi questo è il vero problema. Mi chiedono se comprerà sul mercato secondario o sul primario, e poi la categoria confermi che è quella di investment grade, con durata dai 20 sì, ai 30 assolutamente. Anni. Investment grade vuol dire le obbligazioni che hanno un rating, diciamo, sufficiente, un voto buono, quindi sono imprese affidabili, non imprese, diciamo, spazzatura. Comprerà sia sul mercato primario, quindi quando un'impresa emette un nuovo bond, sia sul mercato secondario, quindi andando nelle borse dei bond a comprare obbligazioni già esistenti, però sul mercato primario non potrà acquistare obbligazioni di società che hanno una quota pubblica nell'azionariato, cioè che hanno ancora lo Stato come azionista. Purtroppo in Italia, di queste 26-30 aziende che hanno obbligazione, la maggioranza ha ancora una quota dello Stato, per cui per le obbligazioni italiane principalmente la BCE acquisterà sul mercato secondario, anche se ce ne sono tante comunque è acquistabile anche sul mercato primario. Vedremo gli effetti, sicuramente benefici per chi è un grande gruppo abituato a raccogliere prestiti attraverso obbligazioni societarie sul mercato, quello è indubbio. Poi se uno fa ragionamento, ripeto a chi mi sta scrivendo, sul tipo e la morfologia, diciamo, del tessuto produttivo italiano, beh, allora lì il ragionamento è un po' diverso, perché a mio avviso per noi i benefici saranno più limitati che per altri. Che per altri paesi, Moria? Sì, no, poi bisognerà anche vedere anche queste grandi imprese che beneficiano, come useranno i soldi che gli vengono dati, perché se un conto è usarli per investire, un conto è usarli, come stanno facendo altri, per ricomprare obbligazioni vecchie a tassi alti ed emettere obbligazioni nuove a tasse basse. Quindi bisogna vedere poi se questa manovra, anche per le imprese a cui un beneficio arriva, se questo beneficio poi andrà a tradursi veramente nell'economia reale, quindi nella crescita e nello sviluppo. No, una risposta devo dare a chi mi sta scrivendo sulle piccole imprese. Io non ho detto che sia un errore avere piccole imprese, ho detto che noi in proporzione però ne abbiamo un po' troppe, e per piccole intendo dire non solo le dimensioni ma anche il grado di internazionalizzazione, l'andamento del tuo capitale, la presenza di liquidità, cioè chi ci mette i soldi, sono tutti in mano alle banche o principalmente in mano alle banche, alla famiglia o è anche private equity, cioè anche capitali privati dentro la tua compagine societaria. Questo è il problema, non è solo la dimensione in senso stretto, 30 piuttosto che 70 dipendenti, ne abbiamo parlato molte volte. Dopodiché c'è oggettivamente, anche questo l'abbiamo ricordato negli anni scorsi, una penalizzazione a livello europeo quando la banca deve prestare i soldi a un'impresa, a un soggetto piccolo, perché viene penalizzata, adesso non potremo spiegarlo nei dettagli, sul fronte dei soldi che deve mettere da parte nel caso di rischio che l'impresa non ti ripaghi. C'è un'oggettiva penalizzazione sulle società più piccole e quindi di nuovo sul tessuto della nostra impresa. Grazie a Moria Longo, andiamo sul traffico e poi parliamo di auto. Focus Economia. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Ultimo tema di questa puntata, il Salone dell'Auto di Torino, inaugurato oggi al Parco del Valentino fino a domenica 12 giugno, attesi 500.000 di visitatori. È la seconda edizione, con 44 case automobilistiche che rappresentano oltre l'80% del mercato italiano. Presentati ben 25 modelli in anteprima, E allora dobbiamo andare un po' rapidi, però saluto da un lato il presidente del comitato organizzatore del salone, Andrea Levi, buonasera. Buonasera a tutti. La sentiamo un po' bassa, se mi alzate il volume del collegamento, e grazie anche a Gianmarco Giorda, direttore dell'ANFIA, che è l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Buonasera anche a lei, Giorda. Buonasera a tutti. E poi c'è il nostro Andrea Ferro in collegamento. Andrea, rapidissimo, le novità presentate oggi. Allora, oggi è stata la giornata dell'inaugurazione, sono state presentate le anteprime delle squadre, delle case che hanno presentato le loro novità. Sono molto rapido, come dicevi, sono 28 le anteprime nazionali, 8 quelle mondiali, in un'atmosfera estremamente significativa, estremamente incoraggiante per l'automotive. Peraltro in una giornata, in una cornice atmosferica variabile, dal sole siamo passati alla pioggia, ma ripeto, le previsioni sono incoraggianti per quanto riguarda questo settore. Ci sono chiaramente tante iniziative collaterali collegate a questo salone che ribadiscono il legame strettissimo, storico, di questa città con l'auto e quindi con la storia delle quattro ruote. Ti lascio la linea. Allora, direttore Giorda, l'andamento delle immatricolazioni, perché a maggio abbiamo visto un altro buon dato, più 27,3%, buono anche per Fiat, che è salita più della media del mercato, più 33,3%, con una quota che tocca quasi il 30% del totale, 29,79%. Le vostre previsioni sul 2016? Ma diciamo che innanzitutto un maggio molto positivo, grazie anche al fatto che ci sono stati due giorni lavorativi in più. In ogni caso l'incremento sarebbe stato a due cifre, questo è sicuramente molto incoraggiante. Noi prevediamo un mercato che dovrebbe chiudere sul 1.700.000 autovetture. Ci stiamo avvicinando lentamente a alla fatidica soglia dei 2 milioni di auto, che secondo noi rappresentano un mercato strutturale equilibrato per il nostro paese. Ricordiamo che nel 2013 le vendite erano scese a 1.300.000, facendo un meno 50% rispetto al periodo pre-crisi, per cui c'è ancora tanto spazio da recuperare, ma pensiamo che nel giro di un paio d'anni un mercato 2 milioni potrebbe essere un mercato già soddisfacente per la nostra economia e per tutto l'indotto, chiaramente, che genera comunque un mercato così importante per l'auto. Presidente Levi, l'obiettivo di questo secondo anno del salone, perché insomma alcuni ascoltatori dicono ma di saloni ce ne sono anche tanti, l'obiettivo e qual è la specificità di questo Salone dell'Auto di Torino? Ma è un nuovo concetto, quindi ci aspettiamo un pubblico diverso dai saloni tradizionali, perché l'apertura gratuita del salone è l'orario fino alle 24 e il fatto che le auto sono esposte in un parco cittadino, quindi è un nuovo concetto anche per le case automobilistiche di esporre l'auto. L'auto va in mezzo alla gente, quindi in un parco già naturalmente frequentato di persone. E quindi questo lo colloca è il primo caso, direi, di salone all'aperto nel mondo, frequentato da 43 case automobilistiche in questa seconda edizione, con le anteprime di cui abbiamo parlato prima, quindi sicuramente l'occasione per riavvicinarsi all'automobile da parte di giovani, coppie, famiglie, quindi quel target che non è più così frequente nei saloni tradizionali. Andrea, il modello più atteso? Sì. Ma è difficile dire quale possa essere il modello più atteso. Chiaramente c'è molta curiosità anche qui per le ipercar, le supercar, per intenderci le macchine da James Bond, che chiaramente attirano la folla davanti agli stand. Quindi è difficile fare una classifica di come possa ragionarsi l'attesa e l'aspettativa da parte del pubblico. Io da cronista posso testimoniare un'atmosfera molto positiva, un interesse, una curiosità che va chiaramente rivolta alla macchina come oggetto, ma anche a tutto quello che la macchina rappresenta un po' nella nostra quotidianità, nella nostra vita, quindi la macchina che è stata, ma soprattutto la macchina del futuro, perché in questo salone si parla molto della macchina del futuro e la si immagina, diciamo così, attraverso linee sempre più particolari e chiaramente dotazioni sempre più sofisticate. Bocche cucite alla Fiat sull'accordo che è circolato con Google e con Uber? Direi di sì. Chiedo conferma agli altri ospiti, ma mi pare che convengano. Nessuno ne vuole parlare. Vabbè, però insomma qualcosa ci deve essere, perché continuano a circolare circolare voci. Grazie, io ricordo tra l'altro che anche Radio 24 è presente al Salone dell'Auto di Torino e non potevamo che essere sopra un camion, si chiama truck. Chiaro, ma io prendo la patente Prendi la patente E e siete su un camion da cui verranno trasmessi alcuni dei programmi in diretta, cito i prossimi: Effetto Giorno, Tutti Convocati, Cuore Denari, 2024, Il Sabato del Villaggio e anche Radio Tube. Grazie intanto a Andrea Ferro e al presidente del comitato organizzatore del Salone Andrea Levi, nonché al direttore dell'ANFIA Gianmarco Giorda. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata da parte di Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.